La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L'articolo 7 affronta quella che storicamente si è chiamata la questione romana che non era risolta neanche per l'Assemblea Costituente. E infatti i costituenti si posero il problema di come regolare i rapporti fra l'Italia e la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica non è solo una religione per l'Italia, ma è anche un Stato nello Stato. Ecco allora che si usa questa formula quasi da diritto internazionale. Sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine, ordine morale, ordine temporale, ordine spirituale. Ci viene in mente questa distinzione che viene regolata per Costituzione, però dai patti lateranensi, da questo accordo che venne stipulato nel 1929 e poi rinnovato nel 1984 proprio sui rapporti fra l'Italia e lo Stato Città del Vaticano. Ovviamente il Costituente dedica un articolo apposito alla Chiesa Cattolica, sia per la questione territoriale, sia perché è religione ampiamente di maggioranza nel nostro Stato. Tuttavia, l'Italia resta uno Stato laico. Più volte la Corte Costituzionale lo ha riconosciuto in varie occasioni, l'Italia è uno Stato laico, aconfessionale. E in questo c'è la forte distinzione invece, ad esempio, con lo Statuto Albertino, perché lo Statuto Albertino, malgrado fossimo in piena questione romana, apriva recitando che l'unica religione di Stato è la religione cattolica apostolica romana. Anche in questo c'è una forte rottura storica perché la Costituzione non pone una religione di Stato. Giustamente deve affrontare dei problemi differenti anche per la questione geografica della Città del Vaticano. L'articolo 7 rappresenta anche un mirabile compromesso fra le diverse forze costituenti, perché dopo tanto dibattito questa formula, affiancata anche poi al successivo articolo 8, rappresenta un testo che fu votato non solo dalle forze cattoliche e liberali, ma anche dalle forze di sinistra, proprio a sottolineare l'accordo raggiunto e quindi l'idea che in fondo era un buon punto di compromesso.